Benvenuti, puntata brutta su un film brutto che non dovevo consigliare. Basta, finita qui. Finisce addio, qui. Ci sentiamo per la prossima. Con me ci sono Jacopo e Andrea, e che a cui ho rovinato un'ora della loro vita. Ciao, due. Ciao. Io sono Jacopo e anche io ho visto Uja Shark. Uja Shark. Esatto. Parliamo di Uja Shark. Com'è che si pronuncia? Uja? Uja? Ouija, Ouija. La parola in teoria viene, cioè si è formata da wi, cioè dal francese e si tedesco, quindi Ouija, però pare che si legga Ouija o Ouija. Perché gli americani non sanno perché pronunciare esatto, le parole. Americani, sì. Quindi, ricominciamo dall'inizio. Perché ho visto questo film e ho detto potrebbe essere intrigante? Perché è della stessa casa di produzione di Velocipasto, ovvero la... come cacchio si chiama? Non mi ricordo già più. La Red Eye, tipo, no, come si chiama? Vabbè. E la troverò. Non mi ricordo più un cazzo. Oh no. E, comunque, il genere di questo film è horror, ma in realtà è un film girato da tipo un amatore, perché è un film di quelli brutti. Wild Eye Releasing. Ok, l'ho trovato. Ha un po' di somiglianze con altri film che abbiamo visto. E assomiglia un po' a Gourmet, come diciamo abilità nel recitare e nel fare la regia. Di Sì, ma cosa? Cosa? Beh, non paragonabile, dai. più o meno come pesantezza è uguale. La trama è la seguente. Alcune amiche si ritrovano in una casa con piscina, avuta per motivi, boh, non so, non mi sono perso quella parte di storia. E una di queste trova però, mentre fa un bagno al lago lì vicino, per sbaglio, una tavoletta, appunto, Ouija. Decide di portarsela nella casa in piscina. Loro sono amiche un po' adolescenti, un po' sciocchine di quelle americane, un po', e decidono di fare questa finta seduta spiritica perché volevano giocare a carte, ma quello gli sembrava più interessante. A cosa è collegata questa tavola? Lo vedete anche nel titolo e nel trailer. È collegata a questo squalo fantasma che è stato rinchiuso lì dentro perché era lo spirito guida di, boh, non lo so, non si è ben capito. Che una volta che loro leggono appunto la tavola, usano la tavola, viene liberato e comincia a uccidere le persone. E loro devono trovare un modo per, diciamo, boh, scacciarlo, non lo so. Perché mi aveva intrigato, a parte per la produzione, anche perché appunto è bruttissimo, cioè è proprio imbarazzante. L'effetto dello squalo è palesemente dipinto su neanche, è una finta ombra con un alone di uno squalo fermo, è proprio l'immagine ferma che si muove. E mi sembrava abbastanza brutto per essere bello, in realtà purtroppo è solo brutto, brutto, brutto. E nel cast ci sono degli attori famosi nei B-movie. In realtà io non lo sapevo, però poi sono andato a leggermi puttanate perché tanto non c'è del film, non c'è da dire molto. Stavo dicendo? Che del cast fanno parte persone Ah, che fanno famose. parte, esatto, tipo John Migliore. Insomma, questa gente qui famosissima, no? E Peter Whittaker, che è credo il padre, se non sbaglio. Però nessuno degli attori cioè, sono tutti presi dalla strada, per citare Aldo Giovane e Giacomo. purtroppo si vede. E non so, boh, ditemi voi cosa ne pensate, cioè cosa, quanto mi avete odiato guardando questo film. Madonna, quando... tantissimo, tantissimo. Cioè, la no, cosa... Salla, io... Vai. No, dicevo, la cosa brutta è che è anche molto catchy il... Vabbè, a parte la canzone imbarazzante alla fine, ma, cioè, come... Non so se avete visto La Locandina. Cioè, sì, strafiga. Esatto, è vero. Ma infatti, Salla, io non ti ho odiato perché anche io ci sarei cascato. Cioè, nel senso, leggendo quella descrizione, quella trama... Guardando il trailer e guardando La Locandina, io mi aspettavo una roba non come Velocipastor, magari sì, meno autoironica di Velocipastor, ma comunque delirante. E invece no, cioè è delirante in senso sbagliato, proprio i tagli di audio, nel senso che tu prima senti l'audio di una ripresa, poi viene attaccato l'audio della seconda, quindi senti proprio che si spezza, tutti i rumori di fondo, cose strane senza senso, boh, non... Mi ricorda più Birdemic, cioè mi ricorda un film fatto onestamente, intenzionalmente male, ma senza ironia, cioè non so come scriverlo. Proprio... Sì, anche perché ci provano, cioè in alcune cose loro ci provano, dicono tipo fan le gag, no? E perché credi che esca il fantasma, ste cazzate qua, e, però cioè, sono brutte, sono proprio forzate. Cioè, l'unica parte bella è il padre di lei. Che è oggettivamente stupidissimo e divertente, perché A, fa l'esperto di... Bellissimo, sì. L'esperto di occulto. Esatto, B, combatte lo squalo nell'oltretomba ed è devastante. È bellissimo, lui è la parte migliore di tutto il film, sicuramente. Però cioè, poi proprio... il resto, boh. Cioè, la cosa che... La cosa che mi fa incazzare è che, non so, magari mi sbaglio, però non mi sembra... un B-movie, uno Z-movie costato poco, perché tu dici un B-movie, Z-movie, un budget di, boh, 1.000 euro, cioè nel senso hai un budget tipo di persone stronze prese a caso, e invece qua vanno tipo noleggiato la casa con piscina, comunque girato cose in location tipo boschi, spiagge, cose così. Hanno comunque assunto magari... un gruppo musicale per fare la canzone, perché la canzone, esatto, di coda è loro. E poi effetti speciali costosissimi, esatto. Perché quello squalo dove l'hanno preso? Secondo me l'hanno creato loro, cioè ce l'avevano un pupazzo, qualcosa del genere. Boh, sì. Mi fa ridere l'ombra. Google che passa immagini, sopra. Il primo squalo che hanno trovato, sicuro. Com'è quando si abbassano e c'è l'ombra che passa sopra di noi? Che sbarazzo. Oh no. E vabbè, no, potrebbe... no, ne abbiamo vista di roba brutta, però come questo. Vabbè, come questo, sì, si classifica un po' tipo gourmet, non è che sia... No, stato... ma se pensi ma gourmet, gourmet è meglio. Fatto... È meglio, poi è fatto sì, gourmet è dell'86, questo è del 2020, cioè, no. Tra l'altro non so se avete notato, il loro effetto splatter è tipo la ragazza che urla, poi... cambio di inquadratura, inquadra un tronco e loro che buttano una secchiata di cose rosse. Oddio, ecco cosa mi ha ricordato, Salla. No. Quando lo squalo morde le persone, c'è un rumore di mela che viene morsicata. È una mela. Io lì ho perso la testa, ho detto, vabbè, cioè, allora che stiamo dicendo? Bellissimo. Beh, allora, ma poi quando è letto, l'ora non passava mai, è durato 4 ore, esatto. Non è durato un'ora. Perché non diceva un cazzo, ma infatti io ho skippato molte corse delle ragazze, quando no, scappano sì, via. Sì. Cioè è proprio imbarazzante, nel senso, quando fanno tipo tutta la scenetta della coppietta che va nel bosco, cioè ero io in imbarazzo per loro mentre recitavano. Allora, se questo film l'avesse fatto tipo mio cugino, avrei detto, oh cazzo, bravo. Magari è questo che è successo, cioè loro lo volevano fare come film, diciamo, per far vedere gli amici e per sbaglio poi hanno rilasciato, non lo so. Per sbaglio. No, l'unica cosa che mi mette tristezza è che in realtà mi sono annoiato praticamente un po' meno di Cocaine Bear che abbiamo visto settimana scorsa. Che è comunque più bello, ovviamente, però non è che sia tanto più bello. Mi sono annoiato di più, però sì. Sì, no, un po' di più, sì, ma non, cioè, nel senso, l'investimento è stato più o meno lo stesso, come... Madonna. Vabbè, mi spiace. Sì, no, infatti... Poi, Pokémon, però almeno il budget era stato bene, dai. Almeno quello... L'orso lo vedeva tutto, il budget. Lo si vedeva tutto. Niente. Un'altra... Ti diamo un'altra chance. Cos'altro possiamo dire? No, devo dirvi questa brutta notizia, appunto, che avevamo già detto anche la volta scorsa, non so se l'abbiamo detto in puntata o no, che questo film ha un sequel. Sì, ma per fortuna non si trova, quindi possiamo non vederlo. Non lo guarderemo sicuramente, però c'è di nuovo John Migliore. Vabbè, effettivamente è il migliore, però... Sì, che è il padre. Lui è il padre, sì. Specialista di occulto. Quindi è tornato dall'oltretomba e combatte esatto. Di nuovo lo Shark. Okay. E non c'è più Jill, immagino. Che cazzo era Jill? È la protagonista. Ok. Poi non so se avete... Cioè, secondo me la parte più divertente è quella della tipa, dell'amica bionda, quella che si va a scopare il tipo all'inizio. Ma perché? A che serviva? Perché c'è questa ragazza che è con loro, però subito al minuto uno va dal vicino che sta lavando una macchina e ce lo rimorchia. E poi non la vediamo più. Cioè, questi due giorni non la vedono. Lascia le ragazze fare le ragazze. Va bene, no, mi spiace avervi costretto a guardare questo film, è bruttissimo. Niente, non ho un cazzo di altro da dire. No, io volevo dirvi di Shazam, ma in realtà non riesco a vedere quello che mi interessava, perché il primo Shazam avevamo detto volevamo guardare, diciamo, il settimanale. Il problema è che allora sono passate 3 settimane da quando è uscito. Universalmente non è piaciuto questo sequel di Shazam, ho fatto la scommessa. Mm-hmm. Io avevo detto che faceva 30 milioni e 30 milioni li ha fatti in un weekend, diciamo. Il problema è che poi non ne ha fatti altri, cioè nel senso dopo no, vabbè, ne ha fatti altri, però adesso sta a 120 milioni quando il primo stava tipo a 360, cioè, oddio, a 360 magari non subito, però quindi è considerato abbastanza un fallimento come film, almeno dal punto di vista del budget, ma direi anche che di sì, a chi l'ha visto. Però non so effettivamente se questi 30 sono saliti a 50 subito, diciamo entro una settimana, perché Andrea aveva detto 50. Quindi adesso, diciamo, io e Andrea dovremo sfidarci per decidere chi vince il punto più in là. Adesso faremo uno spareggio, non lo so. Vabbè. Ma tu l'hai visto? No. Non l'ho visto perché ho letto che era una merda, ho detto vabbè, uso il tempo per vedere altro. Per guardare Ouija. Per guardare Ouija Shark. No, ha una cosa positiva, cioè che dura tipo un'ora. Ma non sembra. Non sembra. A me è passato molto di più guardare 3 ore di The Batman che guardare. Ma è sicuramente di D&D. Quindi 2 o 3 ore? No, 2 ore e 20, 2 ore e 30. Ah, okay. Cioè. Ah, minchia. Però sono passate subito, cioè questo è... E questo, vabbè, niente. E quindi aspetteremo per Shazam. Yes. Va bene, e niente, è cortissima questa puntata, meglio così, così avete più tempo per andare a vedere i film, non questo. Sai che puoi fare, Sarla? Puoi mettere adesso in montaggio tipo 7 minuti di Velocipastor, di dialogo di Velocipastor, oppure il monologo quello di Black Dynamite, non so, cioè, altri film... belli, però. Belli, esatto, brutti ma belli. Vabbè, non fate a casa. Va bene, noi ci vediamo settimana prossima, stavolta con un film bello. E niente, buona serata. Ciao. Ciao.